cannone appizzato per il poliziotto di stato. Simo X, Mad Simo Boys, Andrew's Right. Ogni giorno vedo cose sorprendenti intorno a me. Ogni giorno che passa ti accorgi qui com'è la gente. Ti sorride sempre quando sta davanti a te. Ma appena ti giri ti incula perché è così l'ambiente. Con la mente assente non ti ascolto attentamente. Fumo troppo spiaccico, poi parlo come un balbuziente. Fra disprezzo confidente, non sono schiavo dello Stato, della polizia di Stato, non sono stato mai coerente. Mentalità da stadio, io sono un tipo orgoglioso. Ribrezzo per le divise, la tessera del tifoso. Oso dire in sto paese c'è più mafia del Flaminio. Quella gente non la metto dentro mai come Robinho. Come Ronaldinho doppio passo e me ne vado. Come lui mi metto a ridere dopo che ti ho saltato. Non sono addomesticato, non ho mai toccato un ago. Ma ogni giorno che passa io c'ho il cannone abbizzato. Ogni giorno mi sveglio e mi vedo sempre più sciupato. Penso smetto di fumare col cannone abbizzato. Certe volte io vorrei non avere mai cominciato. Ma mi rendo conto che lo Zipul è l'unico amico fidato. Tira su se sono giù, mi butta giù se sono su. Non penso mai ho fumato troppo, anzi ne voglio sempre di più. Prendo più insulti io per quello che dico, che cazzo è Vaenga. Rispondo col suono mio che vi cartella come Bud Spencer. Prova a seguire la base, col tempo che cambia la gente lo sa. Che io sono vero in ogni mia frase, dare la vita per ogni mio fra. Dove si va, come si va, perché si va non importa. Basta che abbiamo un pallone, due che voglio stare in porta. Corta la memoria, nella storia porta a porta. Lotta per la vittoria, nelle olandesi poi Baldoria. Anche se senza gloria, fa schifo ciò che mi circonda. Ogni giorno resto a galla in sto paese che sprofonda. Cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato. Non scopo come Franco 30 lance, ma tengo sempre con me sotto banco 30 gange. Non fare domande, senti questo suono che spezza le gambe. Ogni giorno qua c'è un piccolo che vuole fare il grande. In tandem, Simo ed Andrew's Right, give me five. Non lo sai che la mia gente non si venderà mai. All right, siete pronti, vivo in mezzo agli stronzi. Io preferisco gli sbronzi, non credo a quello che racconti. Io rido quando ti monti, mi faccio i miei conti, non ne posso più. Io vedo sti papi che fanno i campioni, ma loro sono buoni solo su YouTube. Arrivo io con più cicloni che pieraccioni sopra un loom. Non metti la vita nelle tue canzoni, non so ciò che pensi perché fai uno scoot. Come uno Scooby-Doo intreccio ste parole, non mollo la presa. Le odio tutti come odio i preti, come odio la chiesa. Il odio pesa come sta moneta, io mi guardo attorno. Ogni giorno per strada ci sono più attori che in un porno. Cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato, nel cannone abbizzato.